24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione europea. Il programma di investimenti da 300 miliardi di euro sarà presentato prima di Natale, perché c'è fretta e dobbiamo agire il prima possibile. Questo programma non sarà congiunturale. Noi abbiamo bisogno di investimenti calibrati che portino alla crescita nel medio termine, investimenti che diano forza all'economia europea. Questo programma di investimenti non può essere finanziato col debito. Quindi mi appello agli operatori economici affinché facciano il possibile per migliorare la situazione sul mercato del lavoro e garantire un flusso di investimenti urgente. La grande vittoria di questi mesi è stato aver proposto e per alcuni casi, mi permetto di dire, imposto un piano degli investimenti dal valore di 300 miliardi di euro. Primo segno dell'attenzione della nostra realtà istituzionale europea non soltanto al rigore, all'austerità, ma anche alla crescita e agli investimenti. Fin qui Renzi. Ma in Italia c'è un grande vecchio, il professor Giuseppe Guarino, che da tempo porta avanti la sua battaglia sull'Europa. Secondo il professore, il trattato fondativo dell'Europa, cioè il trattato di Maastricht, firmato a Maastricht nel 92, non è mai stato applicato, ma in realtà è stato sostituito dal patto di stabilità, che è successivo alla nascita dell'euro. Patto che in realtà il professore considera un vero e proprio colpo di Stato. Perché? La disciplina elaborata da Boehler, da Delors e da Carli, sì, ed approvata da tutti gli Stati con le procedure di approvazione dei trattati, era fondata su due poteri, perché tu non puoi dire la crescita, devi conferire i poteri per realizzare la crescita. Naturale. E questi poteri erano esattamente individuati, erano, ciascuno Stato poteva elaborare, doveva elaborare la propria politica economica in funzione della crescita, nell'elaborare la politica economica in funzione della crescita avrebbe potuto indebitarsi. È una cosa importante che sono stati sostituiti da due doveri. Certo. Il primo dovere è di realizzare il pareggio di bilancio a medio tempo, il secondo dovere di realizzare il pareggio di bilancio a medio tempo seguendo un programma prestabilito dalla Commissione. Dunque due doveri hanno sostituito due poteri, ma questo obbligo non era assolutamente previsto dal trattato. Ma allora, in realtà, professore, cosa diceva il trattato? Puoi superare il valore di riferimento con riguardo all'indebitamento se esistono condizioni eccezionali e temporanee. Ma intanto, se ci sono condizioni eccezionali e temporanee, puoi superarlo. Il problema dell'Europa è qui e non lo si vuol capire. La eccezionalità e la temporaneità esistono in Europa per tutti gli stati a partire dal 1 gennaio 1999. Questo bisogna capire. Perché è eccezionale? Perché dal 1 gennaio 99, invece di applicare l'articolo 104 del trattato all'epoca in vigore, che peraltro è uguale a quello attuale, hanno fatto applicare qualcosa di assolutamente contrario, cioè non l'indebitamento 3% come valore di riferimento che puoi superare, ma l'indebitamento zero. Sai che significa indebitamento zero? No. Tu non puoi indebitarti nemmeno per un euro. È stata introdotta, forzata, senza che nessuno se ne accorgesse, una norma diversa dal trattato. Ma chi l'ha introdotta sta norma? Purtroppo bisogna dirle con estremo dolore, e anche specialmente da parte mia, è stata per l'Italia Carlo Azeglio Ciampi e per la Germania è stato Weigel. Anzi, è stato Weigel che ha trascinato Ciampi. Ma allora ha ragione Renzi quando fa riferimento alla flessibilità, alla temporaneità come elementi per superare questo benedetto 3%. Certo, ma la temporaneità e l'eccezionalità sono partite dal 1999. Vabbè, quindi non è più neanche eccezionale, temporaneo, è definitivo. È temporanea se e fino a quando si applica quella norma. Bisogna non applicare più quelle norme. Cioè, con quella norma non si va da nessuna parte, detto in parole semplici. Si va sempre più giù. Si va verso un disastro garantito. Si va sempre più giù, come in effetti siamo andati sempre più giù. E non solo l'Italia, ma tutti i paesi. Perché qui c'è un'anomalia che generalmente sfugge. I paesi che avevano il bilancio non in pareggio, il 1 gennaio 1999, erano noti con nome e cognome. Cioè, quali erano? Erano quasi tutti, salvo forse la Germania e l'Olanda, ma erano quasi tutti. E allora, conoscendo già le condizioni dei paesi, hanno imposto una norma uguale per tutti. C'era una norma retroattiva, il massimo la massima ipotesi di retroattività. La crisi dell'Europa sta travolgendo il mondo, cosa che io ho detto con chiarezza dando anche le cifre. Quindi, professor Guarino, questa crisi, secondo lei, nasce da questa forzatura fatta dal ministro del Tesoro dell'epoca, Weigel? Ho capito bene, professore? E risulta proprio dal libro di Peluffo dedicato a Ciampi, che è l'autore materiale del famoso regolamento 1466-97, che va sotto il nome di Patto di Stabilità e Crescita, fu Weigel il ministro delle finanze tedesco. È ancora vivente e può essere interrogato. E Ciampi lo controfirmò, lo accettò. E Ciampi fece qualcosa di più, perché l'Italia era molto indietro, era uscita addirittura dal sistema monetario. E Weigel lo chiamò e disse: tu vuoi entrare? Ci penso io. Però tu devi fare quello che ti dico io. Fu sottoposto, secondo Peluffo ha scritto la biografia a Giordani, sì, incredibile. Lui, secondo Peluffo, fu sottoposto a pressioni fortissime da interrogatori di quarto grado, diciamo, come, da parte di Weigel e da parte di Tittmeier, che era il nuovo, perché né l'uno né l'altro aveva partecipato alla redazione del trattato. Dopo l'entrata in vigore del trattato. E allora come andrà a finire, professore? Andiamo a finire che a questo punto, se non si rinegozia il trattato e si crea un potere politico accanto alla Banca Centrale Europea, un potere politico, senza la Banca Centrale, senza potere politico, non fa far nulla. Certo. Sono tutte cose che si dicono, ma che poi non si possono. Vabbè, però mi sembra che il governo italiano ha preso in qualche modo almeno coscienza che il problema è questo, e che la strada è quella. Il grosso pericolo è che con la manovra di cui abbiamo letto stamattina sui giornali, lo Stato italiano si indebita in modo eccessivo quando non ci sono le premesse perché il tasso per fare lo sviluppo del PIL sia corrispondente. E quindi oggi cosa bisogna fare? Oggi bisogna rinegoziare politicamente il trattato, bisogna avere il coraggio di dire che questo è il vero problema. E la Merkel secondo lei è disponibile? La Merkel ha finito il suo tempo, ha eseguito i compiti che le erano stati attribuiti di fare la severa, ma lei stessa di questi problemi è assolutamente digiuna. La sua è una persona certamente molto per bene, che affidate un compito dal governo tedesco, dal sistema tedesco, l'ha applicato con correttezza e precisione e anche implacabilità. Però lei non era l'autore della norma, no. Lei non c'entrava per nulla. Senta, ma è questa nuova Commissione europea può dare qualche speranza o no? Assolutamente no, e purtroppo bisogna che dove si prenda coscienza di questo problema è il Parlamento europeo, perché il Parlamento europeo può fare un balzo, come accadde per l'Assemblea Costituente francese. La Rivoluzione francese è nata da un balzo, l'Assemblea elettiva si trasformò in Assemblea Costituente. E quindi noi dobbiamo sperare nel Parlamento europeo, in una presa di coscienza Parlamento europeo. Certo. Speriamo di vederlo. Ma io siamo arrivati a un punto in cui il Parlamento potrebbe fare questo scatto politico determinante per la sorte del mondo, oltre che nostra. E lo potrebbe fare non mettendosi a legiferare in 700 sul futuro, ma nominando una commissione adatta ad affrontare il problema, come accade per il Federalist degli Stati Uniti. È un testo politico più importante che sia stato mai scritto. Ma i tre fondamentali, Hamilton, Madison e Jay, informavano ogni passaggio che si faceva, lo spiegavano ai cittadini. E se si fa, io credo che le condizioni ci sono, perché l'autonomia locale si sviluppa soltanto in un quadro generale. Certo, definito. E questo è l'obiettivo. 800240024 il numero verde, 349-238-6666 l'SMS. Mario, mi sembra 91 anni e una lucidità strategica al di là della fattibilità e della percorribilità della strada proposta da Guarino, mi sembra una grande visione. L'analisi è quella giusta, anche perché Guarino, a differenza di altri, ha letto tutte le carte. Esatto. Cioè c'è il chiodo giuridico al quale appendere poi il quadro politico, no? Che però il Parlamento europeo, questo Parlamento europeo, questo, riesca a scardinare questo sistema è molto difficile. Tu devi immaginare che il capo della Commissione, Juncker, è anche il, diciamo così, il leader di un paese, il Lussemburgo, che è al primo posto nel Financial Secrecy Index, cioè è il paese che fiscalmente è più opaco del mondo. Puoi immaginare? Molto complicato. Pietrangelo? Dalle parole di Guarino è ben chiaro un fatto, che è stato perpetrato un tradimento alle spalle del popolo italiano. Questo dice. E il vero dato politico è quello di rinegoziare in termini che devono essere assolutamente impegnati su un unico fronte, quello di restituire la sovranità a esatto. questo popolo, che sia fattibile nel Parlamento europeo ho i miei dubbi, ma deve essere sicuramente un percorso da fare politicamente in Italia. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. L'Italia, con l'Europa, promuove il progetto Garanzia Giovani per aiutarti a intraprendere la strada giusta. Capiremo insieme chi sei, chi vuoi diventare, le tue attitudini e i tuoi sogni. Io da grande voglio fare l'ingegnere. Il poliziotto. Io sarò un bravo medico. Garanzia Giovani, lavoreremo tanto perché funzioni. Ai nostri giovani una possibilità gliela possiamo offrire. L'astronauta prima di tutto. Io vorrei essere infermiera. Da grande voglio diventare una maestra. Attraverso la Garanzia Giovani produciamo opportunità per i giovani. Bisogna che tutti abbiano un'opportunità e noi attraverso la Garanzia Giovani lavoriamo perché ce l'abbiano. Voglio fare la veterinaria. Il medico. O la scienziata. Anche se è difficile. Patrizio Caligiuri, esperto del progetto Garanzia Giovani, uno dei coautori del Job Act. Ecco, questi bambini potranno fare da grandi i mestieri che sognano, che ci hanno raccontato? Ma buongiorno, buongiorno. Dottor Minoli, buongiorno a tutti. Ma mi sembra il problema sarà se riusciranno a fare un unico mestiere per tutto il ciclo lavorativo. Questo ne faranno tanti, dice lei. Ne faranno diversi, probabilmente. Ne faranno diversi. E quindi bisogna orientarli verso mestieri diversi, una disponibilità da fare mestieri diversi, così dottor. Una maggiore interdisciplinarità sicuramente sarà premiante. Sembra, insomma, questa è la direzione. E quali, per premiante. Esempio? Ad oggi mi sembra, insomma, una discussione che difficile si fa in tanti. Insomma, sicuramente l'Italia dovrebbe orientarsi verso professioni ad alto contenuto tecnologico, di innovazione, qui i mestieri sociosanitari, la tutela ambientale, la sicurezza alimentare, le nuove tecnologie, sembra un po' questo, diciamo, la direzione di marcia. Sì. Ecco, dottor Caligiuri, comunque fino ad ora si sono iscritti al portale Garanzia Giovani 200.000 ragazzi e solo 50.000 hanno fatto in colloquio. Possiamo chiamarlo un fallimento? Ma io direi assolutamente no. Intanto l'Italia, questo perché insomma, forse è bene tenerlo in considerazione, anche dall'ex commissario ormai Laszlo Andor è stata indicata come tra i paesi che è partita prima per primi su Garanzia Giovani. Ma siamo prima non vuol dire meglio, eh? Prima assolutamente dire meglio, però noi ci siamo attrezzati sin da subito su questo. E qual è la ragione? La ragione, ecco, la ragione che ha attivato con. Ma vabbè, no, diceva i numeri, scusi. I numeri, intanto c'è una distanza tra chi si iscrive e chi poi è disponibile a rispondere al colloquio, quindi si iscrivono in 10 e poi probabilmente disponibili al colloquio sono in 6, ecco. Questo per ragioni fisiologiche. Ecco, insomma. Dottor Caligiuri, qual è la regione che ha attivato con successo maggiore questo progetto? Guardi, le regioni sono diverse, le regioni che si sono mosse per tempo e che si stanno muovendo bene. Io le posso parlare in particolare dell'esperienza del Lazio, dove sono state fatte cose molto interessanti sul progetto e dove, diciamo così, che rappresenta, può rappresentare un modello certamente avanzato di applicazione. Ecco, un nodo però, mi sembra, un altro nodo, al di là dei numeri e di chi risponde, mi sembra quello del coinvolgimento delle imprese. Sono poche finora, perché? Sono poche e su questo c'è un problema, certamente c'è un ambito, un margine di miglioramento che è la comunicazione. E poi le regioni, come sta facendo la Regione Lazio e anche altre regioni, devono attivare un sistema di intese, da un lato con le organizzazioni datoriali, certamente, per far penetrare la conoscibilità degli strumenti, e dall'altro anche con le grandi imprese direttamente, che spesso non conoscono nel dettaglio le modalità modalità e le possibilità applicative della garanzia giovani. Ecco, però a conoscere nel dettaglio può sembrare che gli incentivi erano più convenienti quelli previsti dal governo Letta invece che quelli pensati dall'Europa. Ho capito male? Sì, se posso permettermi. Si permetta. Il bonus occupazionale del governo Letta intanto era destinato solo al contratto a tempo indeterminato e solo a una categoria molto residua di popolazione. Però era di 11.000 euro per impresa, mentre invece quello attuale è di 3.000 euro per impresa. Quello attuale è di 3.000 ed è uno dei Ma è uno, tanto è uno dei 9 strumenti, non è rivolto solo al contratto a tempo indeterminato, come era invece quello, quello previsto dal governo Letta, e poi certamente c'è un problema, come dire, sullo strumento. Non è detto che il bonus occupazionale sia uno strumento buono per qualsiasi situazione o per qualsiasi esigenza dell'impresa, va tarato sulle singole esigenze, sulle esigenze un po' più specifiche delle imprese, che magari possono utilizzare il bonus nella fase di avvio, di sperimentazione della nuova risorsa. Però quello dell'Europa non è cumulabile con tutti gli altri, quindi sono 3.000 secchi, punto. Certamente, proprio perché allora, una gli altri erano 11.000, questi sono 3.000, insomma, poco comunicati, forse qualche però ragione di fallimento c'è. Però guardi che, ripeto, il bonus, attenzione, vediamo nel dettaglio di che cosa parliamo, perché il bonus occupazionale, ripeto, è una delle 9 misure di garanzia giovani e soprattutto è rivolto a assunzioni non solo a tempo indeterminato. Questo, guardi, è fondamentale, perché in un mercato del lavoro come quello attuale costringere le imprese, anche regalandogli il lavoratore, ad assumere una persona a tempo indeterminato, tanto più quando parliamo di un target complicato come quello della garanzia giovani, parliamo di NEET, di persone che non stanno né lavorando né studiando e che magari hanno un livello di skill abbastanza basso. Senta, è complesso immaginare che poi funzioni. Senta, ma le ragioni non dovrebbero valorizzare anche l'apprendistato, lo fanno in realtà? No? Assolutamente sì, l'apprendistato Però, è scusi cari giuri, prima di rispondermi, io guardo i dati del 2012, gli ultimi disponibili, sappiamo che i contratti di apprendistato dal 2008 al 2012 sono diminuiti, cioè in 4 anni ci abbiamo perso per strada 175.000 contratti, allora? Allora, l'apprendistato è un contratto di lavoro già di per sé sufficientemente incentivato. Il problema è che molto spesso entra in concorrenza, diciamo così, con altre tipologie meno complesse da utilizzare per le imprese. Penso al contratto a tempo determinato, tanto più adesso dopo il decreto Poletti di marzo scorso, la causalità del contratto a termine lo rende certamente più competitivo del contratto a tempo, del contratto di apprendistato. Senta. Dopodiché ragioniamo del fatto che in prospettiva l'ingresso dello strumento del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti costringerà a rivedere anche le altre tipologie contrattuali. Dottor Caligiuri, Marina Milone per noi ha intervistato Andrea De Sprint, 25 anni, tra i più promettenti under 35 d'Italia, che invece ha messo a punto un Job Your Life, cioè un sistema per far incontrare direttamente la domanda e l'offerta. Ascolti, poi ne parliamo. Che cos'è Job for Life? È un sito che permette alle persone di trovare il loro lavoro ideale dove desiderano, nel senso che le aziende hanno la possibilità di entrare in un sistema avanzato di ricerca che gli permette di trovare i candidati nella zona geografica in cui li cercano, un po' come avere dei curricula sopra Google Maps, e a loro inviare un annuncio mirato. Il potere sta un po' al candidato, se lo accetta va direttamente in contatto con l'azienda per un colloquio. Che cos'è un algoritmo che ti sei inventato, giusto? Esattamente, noi abbiamo invertito quello che è il processo classico per la ricerca di lavoro online, che è sempre stato così: l'utente va online, va sui vari siti di job posting, cioè dove si trovano annunci di lavoro, guarda i vari annunci e si candida. Questa ha due grosse problematiche: la prima, che i candidati ricevono pochissime risposte da parte dell'azienda; dall'altra parte ci sono le aziende che ricevono migliaia di curricula non adatti magari a quello che loro stanno cercando, perché non c'è alcun tipo di filtro. Noi abbiamo invertito il processo, non sono più i candidati a dover cercare gli annunci, ma sono direttamente le aziende a mandare loro annunci mirati. Quanti utenti hai adesso? JobYourLife conta 250.000 utenti in crescita e abbiamo circa 300 aziende iscritte al sito. Chi ti ha finanziato? Siamo stati finanziati da Angel Investor, che sono fondamentalmente investitori privati. Noi abbiamo trovato 4 di questi Angel Investor e abbiamo raccolto 500.000 di euro. Ma come ti è venuta questa idea? Ero all'università. L'idea è venuta da una problematica, cioè io volevo fare un altro sito, però io non sono un programmatore e quindi mi servivano dei programmatori, ma mi era praticamente impossibile trovarli nel web con i classici annunci, e quindi ho detto: ma è possibile che non esista una piattaforma che mi geolocalizza le competenze che mi servono dove mi servono? E da lì è nato l'embrione dell'idea. Progetti per il futuro. Il primo, che uscirà a dicembre, è un libro scritto a due mani insieme ad Andrea Latino, e si chiama Ultima chiamata, giovani, lavoro, innovazione, futuro, e parlerà appunto tematiche di lavoro e di innovazione. È rivolto agli studenti. Il secondo progetto si chiama Gallery Venture, che è uno spazio di co-working innovativo che ho aperto insieme ad altri due imprenditori, si trova vicino ai Navigli. L'obiettivo è raccogliere le migliori start-up sul panorama italiano per creare un polo dell'innovazione internazionale. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666. Dottor Caligiuri, ha sentito, 250.000 utenti da solo in poco tempo, quelli iscritti invece per la garanzia giovani 200.000, cioè questo filtro fatto dai centri con l'impiego, per l'impiego, sembra essere davvero un tappo invece che uno strumento, o sbaglio? Questo è un progetto, il progetto è interessantissimo, quello rappresentato, ed è esattamente l'esempio del modello verso cui dobbiamo andare. Cioè, il problema non è contro pubblico e privato, no, però, non è metterli insieme. Io non metto insieme contro niente, io le ho raccontato una storia, sì, una storia concreta e reale. Certo, infatti la scommessa è mettere insieme il pubblico e il privato. I centri per l'impiego possono lavorare facendo un'azione di coordinamento con i soggetti privati, con esperienze private come queste. Dopodiché il centro per l'impiego, al pari di qualsiasi altro, diciamo, ramo della pubblica amministrazione italiana, vive il dramma di una distanza col mondo privato in termini di uso di tecnologie. Allora forse la strada, di Andrea De Sprint mi sembra una strada che in attesa da sperimentare anche nel pubblico, assolutamente sì. Senta, c'è una domanda provocatoria per lei, dottor Caligiuri, che ha parlato di tanti lavori che bisognerà abituarsi a fare. Claudia ci scrive: ma il dottor Caligiuri è immediatamente disposto da domani a fare per esempio il rappresentante di bevande, il postino, oppure un bel esempio di flessibilità? Cosa risponde a Claudia? Rispondo che purtroppo il lavoro, soprattutto in fase iniziale, difficilmente ce lo scegliamo. E questo vale per tutti, è valso per tutti nelle prime esperienze lavorative. È un percorso, non stiamo dicendo né che è bello né che è brutto, che purtroppo soprattutto in fase iniziale è importante per tutti noi, per tutti i giovani, diciamo così, cominciare a scrivere qualcosa sul curriculum. Questo è il punto iniziale, perché se si entra nel circuito poi da un'occasione ne nasce un'altra, se si resta a casa e si resta fermi certamente le occasioni, anche migliori, non arrivano. È un dato di fatto, bello e brutto che sia, purtroppo. Senta, c'è Mario Sì che vuol fare una domanda per chiudere. Dunque, con il comparto pubblico che sta tagliando praticamente posti, finanziamenti e così via, che senso ha mantenere ancora oggi una struttura pubblica per la ricerca dell'impiego così ampia? Per me è fondamentale che esista un presidio pubblico sul mercato del lavoro. È fondamentale, il che non significa fargli fare un mestiere che probabilmente non sono in grado di fare, per varie ragioni, anzitutto economiche, perché non ci sono i soldi per le missioni, per andare a intercettare le imprese sul territorio e così via, ma il presidio pubblico che dia una garanzia a tutti di pari opportunità è fondamentale, ecco perché parlavo di cooperazione pubblico-privato. Dottor Caligiuri, Enzo da Torino ha una domanda per lei. Enzo, buongiorno. Sì, buongiorno a lei, Minoli. Dica. Buongiorno. Allora, io veramente volevo sapere come mai nessuno ne parla, a nessun livello. Dica. Del grande problema degli stage giovanili, dove vengono sfruttati di 6 mesi in 6 mesi, gli fanno fare anche dei lavori ad altissimo livello, a 500 euro al mese, senza garanzie, senza nulla. Nessuno ne parla, perché mia figlia ha fatto uno stage in una grandissima azienda dove ha scoperto, lei faceva, era nelle risorse umane, e ha scoperto che c'erano 180 D'accordo. Stagisti. Ok. Grazie. Caligiuri, una risposta? La risposta è che già abbiamo fatto un passo in avanti, i tirocini prima potevano essere persino gratis, grazie. Oggi i tirocini possono essere pagati, diciamo, almeno 300 euro al mese e hanno una durata limitata nel tempo, non reiterabile. Detto ciò, è evidente che è uno dei tanti strumenti su cui a volte si è verificato un abuso, questo è fuori discussione. È fuori discussione, bene. X24. Chiamami adesso, sì, lo so che prima era più facile, ma adesso che ho bisogno io di farmi trovare, farmi trovare. Allora? Allora capita di attraversare la notte e trovare l'alba, e quindi il giorno, guidando. E quindi si mangia tutto quel buio e si chiude il pasto tutto di sentimento con il paesaggio, costeggiando il mare, sfiorando i vigneti esausti, mettendosi alle spalle le cime, le onde degli Appennini e poi in petto un solo respiro. Arriva il giorno e l'unico respiro è chiamami. Subliminale. Bello. No, ho detto è subliminale. Sì. Se prima di sentire le bolle che stanno nella pentola di Mario, ricordo il sito di Andrea De Spirt, 25 anni, che abbiamo intervistato prima, perché molti ascoltatori ci scrivono: www.jobyourlife.com. Cosa bolle in pentola? Vediamo. Rosa, 25 anni che sono in marina e non ho mai visto niente del genere. Un sommergibile rosa. Sta bene, ragazzi, avete 3 ore per festeggiare l'anno nuovo, ma alle 17 prendete il pennello e lo dipingete di grigio. Pensa se dalle acque svedesi emerge un sommergibile rosa. Allora, storia ovviamente fantastica. È la caccia a ottobre rosso, o russo, o nero, mettetela come volete. Bene. Siamo al sesto giorno di ricerche. Sì. Gli intrepidi svedesi solcano le acque, le scrutano in profondità per trovare il sommergibile russo avvistato a 30 miglia da Stoccolma. Hanno dichiarato i coraggiosi vichinghi che ora entreranno in campo, udite, udite, udite, udite, cari ascoltatori, caro Giovanni e caro Pietrangelo, le forze armate. Ora, il governo svedese è in carica da poche settimane, è un'alleanza tra socialdemocratici e verdi, voi ve li immaginate che stanno alle prese con la caccia a un sommergibile da subito, una sorta di battesimo del fuoco. Le mie previsioni sono che se gli va bene sparano un missile prima o poi contro una ringa che scambiano per qualcosa. Però, detto tutto questo, in Svezia li prendono anche un po' in giro adesso. Ultimamente sui telefonini compaiono sommergibili ovunque e dice che vedono sottomarini sotto ogni scoglio. C'è un commento da Mosca che io purtroppo devo darvi. Dai. E il commento è: vodka svedese non fa bene come quella russa, e dunque la caccia continua. Molto bene. E lei, signor Powers? Sono Rebecca Romijn. Non credo di aver mai avuto il piacere. Beh, per forza, non ti ho mai dato il piacere, Rebecca. Ti ho appena conosciuta. va bene, Austin Powers, no? Se non sbaglio. Allora, qua la situazione è ancora più divertente. Ci occupiamo un po' di spie. Allora, c'era il capo dell'NSA, Keith Alexander, che, Giovanni, investiva in potassio. Uno dice, ma cosa ti metti a investire in potassio? E invece? E invece è molto interessante quello che faceva questo signore. Intanto settori di produzione e interesse: Belarus, Cina, Russia, cioè i paesi che spiava. Non male. Poi, insomma, un mercato che gli esperti definiscono chiuso, strano, dai prezzi di fatto concordati da un piccolo cartello, e lui era bravo perché vendeva poco prima del crollo, sempre alto, up, guadagnava, vendeva e poi i titoli crollavano. Però è sicuramente un caso, ed essendo gioiellino, insomma, è un pezzo che consiglio di leggere su Foreign Policy, molto accurato, un gioiellino appunto per chi si occupa di queste cose. Salamino. Li guai dalla Sicilia, notizie che arrivano. Allora, intanto una proposta che mi sembra giusta, l'ho letta su Twitter, Daniela Sessa fa una proposta: ma questo satiro perché non viene portato all'Expo? È la storia di cui abbiamo riferito ieri, certo, una sala di 200 metri quadri per esporre questo gioiello nelle mani di più di 20 impiegati della regione, che però non riescono ad aprire neppure di sabato o di domenica. Oggi sul Corriere della Sera Gian Antonio Stella ne riferisce. E io adesso avrei da fare una questione. Falla. Una domanda. Per esempio, che sta succedendo in Sicilia? È il ruolo di Renzi nella crisi attuale? E ho al telefono Giuseppe Sottile, allora lo saremo, del Foglio, che ce lo dirà. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Sottile. Allora, buongiorno, vorremmo sapere come va a finire la Sicilia. Beh, la Sicilia ormai praticamente va alla deriva, cioè alla deriva nel Mediterraneo. Non so con quale paese si ricongiungerà, se con la Libia. Non scherzo, purtroppo, perché è ormai una regione senza alcuna guida. E devo dire, stando alla domanda di Pietrangelo, che la situazione è esattamente la seguente. Cioè Renzi dimostra in questa vicenda che c'è un altro renzismo, cioè c'è il renzismo delle periferie, quello che non va nei talk show, non va da Barbara D'Urso, perché se Renzi avesse il coraggio di parlare della Sicilia da Barbara D'Urso, da in qualunque altro talk show, dovrebbe dire che quella regione ormai, con la complicità dei renziani, è diventato un reliquario di nefandezze. Vabbè, addirittura. Sì, e non riesco neanche ad esprimere il grado di degrado di questo paese. Tu pensa che c'è un presidente della regione che giustamente butta fuoco nella sua buttanissima Sicilia, ha definito un pappagone. Vabbè, ma qui insomma siete proprio compari, due no, compari. Spiego, vengo, come dicono i siciliani, vengo. Venga al punto, che c'ha 25 secondi. Vengo e mi spiego, cioè ormai questo pappagone è andato avanti ed è diventato una sorta di giufà in mano a quattro malandrini, che poi è la mafia dell'antimafia, parliamoci chiaro. Cioè non c'è più uno spiraglio di governo, questa è diventata, questa Sicilia, la ridotta delle vecchie classi politiche che si riciclano in nome di che cosa? Di una... di una antimafia improbabile, e devo dire che purtroppo che ormai agisce con gli stessi metodi della mafia. Ci sono i padrini occulti che manovrano una giuntarella, scusami, fatta di ciuffare. Punto e basta. Mi consenti, capisco il tono che può essere, come dire, un po' forte, molto forte, un tono molto, molto forte, però la situazione è talmente drammatica che merita, scusa, questo sonno, che merita soltanto di parlare chiaro, come ha parlato, devo dire, Buttafuoco in questo libro, bellissimo, perché finalmente ha detto le cose che nessuno aveva il coraggio di dire. Grazie. Ha detto l'indicibile. Grazie, dottor Sottile. Mix 24. Sara, vai con la quota rosa. Molto ingegnoso. Si è trascinato per tutto il pavimento. Ah sì? Se no come faceva a evitare il campo dei radar? Oui, naturalmente. Certo, aveva bisogno di un pavimento molto scivoloso. Infatti è a cera. A cera! Si è fatto del male? Ma ho l'ho fatto apposta per esaminare la cera. L'ispettore Clouseau mi ricorda tanto, tanto, tanto il Secret Service americano. Non so se sei d'accordo, Mario. No, quelli sono i francesi che sono un disastro. Ah, certo. Invece ieri gli americani, che sono bravissimi, insomma, hanno assistito per la settima volta all'intrusione in un anno dentro la Casa Bianca. Bravi, no? Prima gli spari all'ala ovest, poi un intruso armato nell'ala est. Insomma, peggio dei furti estivi, secondo me. Un ragazzo di colore con un paio di pantaloncini bianchi, e diciamo che si poteva anche notare, ha pensato bene di scavalcare i cancelli della White House, e così, tipo, sai, la pubblicità dell'olio cuore, e i cani da guardia sono stati malmenati e solo dopo gli agenti della sicurezza lo hanno fermato. Io non lo so, non capisco niente, però siamo proprio sicuri di continuare a delegare la nostra sicurezza all'America? No, io no, non sei, non tu so non sei voi. Sicuro. No, 800 24 00 24, sentiamo i nostri ascoltatori cosa ne pensano. 349 238 6666, il canzoniere. Passò in Navarra e tindi in Aragona, lasciando a chi il vedea gran maraviglia. Restò lungi a sinistra Taracona, Biscaglia a destra, e t'arrivò in Castiglia. Vide Galizia il regno di Lisbona, poi volse il corso a Cordova e Siviglia. Ne lasciò presso al mar, né fra campagna città, che non vedesse tutta Spagna. 800 24 00 24, il numero verde, 349 238 6666, l'SMS se qualcuno ha indovinato il nostro canzoniere. C'è ancora una bolla? Sì, dai. Insomma, sai chi era questo? No. Era Zuckerberg, che parlava, il fondatore di Facebook, certo, per chi non lo sapesse, che parlava in mandarino. Ora, c'è stata tutta una presa in giro sul suo mandarino, eccetera, come Renzi, l'inglese, tutti, insomma, i leader in qualche maniera devono subire questo esame. E vabbè, sai a che età corrisponde il mandarino di Zuckerberg? 7 anni. Beh, magari io neanche quello, però dico la verità, cioè, il mandarino un po' abbiamo dura. Qualcuno che ha indovinato il nostro canzoniere, lo vogliamo aiutare un pochino, Pietrangelo? Non hanno, allora, indovinato di nuovo, ancora. Un classico. Dovrebbero conoscerlo. Non essere severo come un professore di liceo. Ma lo sono stato professore di liceo. Si sente nella voce. Allora, è un classico. Poi cosa posso dire? Si va sulla Luna pure. Se ne fanno di tante, di avventure, di storie, di immagini. Qualcuno Marco da Torino. Ecco. Marco da Torino. Grazie. Buongiorno. Marco, ci ha salvato. Buongiorno, buongiorno, dica. Ci ha salvato. Ludovico Ariosto, L'Oranno Furioso. Ah, giusto, perfetto. Hai bravissimo. Visto? Hai visto che Renzi. Ma Marco, non cosa fa? Marco, cosa fa? È in macchina anche lei, immagino. Sì, sono in macchina nella mia splendida Torino. A splendida Torino, dove sta andando? Qui siamo tanti di Torino. Sono in centro, sono vicino alla Gran Madre. E che lavoro sta facendo? Che lavoro fa? Rappresentante di bevande, mettiamo le ali, cerchiamo di mettere le ali alla gente. E Orlando Furioso le piace? Se lo ricordava? Sì, me lo ricordavo. Sara chiede dove è andata a scuola. Ho un istituto tecnico, paradossalmente, nonostante avessimo solo 2 ore di lezione di italiano. Vabbè, una grande passione, quindi. Sì, un gran professore. I professori sono tutto. Grazie, grazie mille. Alle 9.40 del 23 ottobre del 42 ha inizio l'attacco delle truppe britanniche contro quelle italo-tedesche ad El Alamein.